una misura, ho guardato la misura su internet, 75 centimetri. Gianna, adesso ti riprendo la patente. Come va a stare questa antenna? Dai, io sono il presidente. Già. Gianni. Ehi, guarda come va questa antenna. Senti, lo sente qua, stai arrivando. Guarda così. Rientrando mi chiami Lella, perché se non mi tocca salire a casa, da poi di 5 minuti mi chiama e da poi devo tornare di nuovo giù. Abbiamo detto ancora. Cappa, adesso sono goccioline. Cappa, cappa, però è calda l'aria, eh. Che ve ne pare, già è calda. Se c'è un caglio in macchina, cazzo, che c'è da sentirsi male. E però purtroppo se piove, non sai cosa succede adesso, con questo caldo, però stanotte ne vedi di nebbia. Anche, però la cosa più brutta è che adesso con quest'acqua e con questo caldo hai voglia di ne vengono fuori di te che mi pierda. Quella è una mala sorte, vecchia volontà, E quello è, ma la spinciola, la roba cattiva già viene fuori sempre. Ah, no, grazie, bella lo scorso. continentali, se avvelenate come sono. Ti prezzo qualcosa. E appunto? Io sono finito in ospedale per quello. Caspita, voglio stare molto attenti, voglio stare molto attenti a quella peste lì puttinose. Quindi e lo dico che funziona. Non gli ho capito solo lo stile, Mattari, anche quella brugola che c'è sopra, quella cosa che si avvita, no? Sai che si smonta anche la tua, no? Si avvita l'antenna. Oltre che toglierla dall'attacco a farfa a coso, si può togliere anche da sopra, si svita. Non so com'è fatta. E quello lì io gliel'ho cambiato, perché era tutto quanto messo male, non mi piaceva. Tutto consumare. Allora gliel'ho cambiato. Me ho messo quello di Giuseppe che era più nuovo, di quell'antenna che mi ha dato, di quel pezzo di antenna vecchia che mi ha dato. Ho messo quello lì che era più nuovo, mi mancava una brugola, gli ho aggiunto la brugola da quello che avevo io e adesso è doc. Guarda, la carica della Minox è più lunga a me. E infatti io ce l'ho la carica della Minox, la carica ce l'ho della Minox, è lo stilo che praticamente era stato tagliato male e non dava un bene stazionale, e io da un'antenna gli ho fatto lo stilo. Sì, già ho capito, ma anda bene meno, se ti ruba un punto a regolare. Infatti, l'ho fatta dopo, tutto su misura, proprio alla perfezione. Poi non si nota neanche quando hai fatto quello scatto là, nulla, quindi stazionare non è altro. No, niente. Cioè vabbè. E tra l'altro anche vicino agli alberi mi viene cortile, è una zona d'ombra. Figurati. Cavagavi. Ne vuoi venire, figurati in campo libero. Infatti. E vabbè, la dovrò provare, vediamo un po' se mi soddisfa, se no. Ritorna a cuccia. Per forza ti soddisfa, invece di arrivarmi in Santiago 9 magari mi arrivi Santiago 8. Ecco il discorso. Che dopo puoi arrivare sempre Santiago 9, basta, già lo sai. Beh, lo sì, lo sì. Giuseppe, a te la parola. Ma Pierpaolo è uscito. Pierpaolo. Eita, sono qua. È qua. Di vedere le mani se ce l'avete libere, non è che state martuzzando senza dirmi niente, no? No, mega. Troppo silenzio in quelle coordinate, né? No, stavo pensando di andare a masticare un po' di tiramisù, eh. Ale, yuhu! Kerpa, Nassero PG. E ti ho messo bucato il dito, l'ho visto che sono a 55 e quindi mi sa che sto decidendo per andare una sfida. Ma come mai ce l'hai così bassa? Non è che il passo è troppo forte, no? Scusa, è inutile che te l'abbia bucato il dito, capito? Se non te l'avresti bucato era stato meglio, almeno ne mangiavi quanto volevi. No, ma adesso gli ha dato proprio l'autorizzazione di mangiarlo perché c'è la glicemia bassa. Sì, ma poco, no? Una zattaina, no? Se si ne mangia una zattaina, la glicemia è data da Ravicelli. Ho preso la cosa, voglio di poco. Cappa, ascolta, dottor Martalaus. Perché gli ha detto di mangiarlo tutto questo tiramisù e da un chilo? Ottimo, a metà. Mezzo più va bene. Vabbè, non ne dico neanche più, a chi mi dica a fare la risa già. Per Paolo è un grossista, non vende nulla al minuto, tutto all'ingrosso. Scusa, almeno allora io ho fatto la divisione. Ogni 100 grammi deve salire di 10 mg, quindi questi sono 500, sono anche inferiori, dovrei mangiarne 600. Senta un po', signor Vela. Questa resa non hai di mangiare, no, come ti dici tu, non hai compreso. Pezzo di aro. Ascolta, io ho avuto un calo di zuccheri in questi giorni bestiali. La mattina ho toccato anche 45 e bisogna ricompensare. Me avresti voluto mentre dottori, sta più 30 stacchetto lei. Sarà massa di nella parata, buru. Ali, io sono già arrivato a 3 kg di sotto, eh. So sei, io ancora Nisba, anche se sono a dieta, boh, vabbè, mi devo pesare, non mi sono pesato, però non penso di aver abbassato nulla. Un attimo che scendo, che mi prendo le smoking, anche se non dovrei fumare, il fumo fa male. Quello sarebbe un grosso passo in avanti, lo smoking. Gianni, mi dai un controllino di radio per gentilezza? Ah, è buono, Giuseppe. Va bene, squillante. Questo microfonino della Midland, io mi stavo guardando Pierpaolo quando schiacciava la portante, gli spariva in mano, ho detto, lui adesso tra un po' gli schizza tra le dita. Giuseppe, buttati di tutto che passo io a prendere. Benissimo, ben sentito e ben trovato, cappa. Piano, piano però, mi scende e metti tutto vicino al contenitore, altrimenti se lo butti dalla finestra ti stacca tutto. Cappa, no, sono in barra, sono nella barretta, Giomari, caspita. Lascia Giomari in pace, lascia la cena per noi. Mario, caspita, ogni tanto mi sento un po' la lingua. Un attimo che mi squilla. C'è più nessuno? Adesso. Ti ho visto da qui, leccandoti il cucchiaino, Pierpa. No, non è toccato. Ah, chi sta bravo? Io ho mandato la suggerita. Terribile! È una cosa terrificante, vero? Mamma mia, ancora vedo. Magari ti ha fatto anche l'occhiolino, Pierpa. Poi che sono andato a prendere un bicchiere d'acqua per dormire in ferma, guardato. E beh, ma ti trovo oggi. Non si canta messa. Ma io sono del parere, Pierpa, che è sempre meglio un gusto che 100 malanni. Quindi se c'è la voglia del tiramisù che venga. Il male è quando c'è la voglia di una cosa e non c'è. E il fatto è che se non c'è bisogna fare sì che ci sia. È positivo, al 100, Pierpa, alla grande. Cioè, mai da me la magia contro un capo facendomi pigliare l'orcoso da terra, mannaggia la miseria. Aia, quello è il tiramisù che ti ha distratto adesso, boh. E intanto sta continuando a piovere, mi pare che sta aumentando, uffa. Puro. No, mi sono abbassato a prendere il tappo del flacone di quello spray per i contatti. Mannaggia, tutto a posto, sì. Ma sembra che il sangue non se ne venga, se ne è controllata, Capo di avosso vegano, gnò. Mario Mao è andato via, sì. Chi? Ma c'era Mario poco fa. Mai, no. Non c'è. Infatti l'ho confuso per Gian Maria poco fa. Hanno quella voce che è quasi simile. No, io non la riconosco. Cappa. Io ci sono caduto, notte e tutto. Cappa. Controlla il segnale, mi sa che sta andando e salendo, di positivo, registrato il brecco e sta salendo il segnale, sì. Eia, sto salendo. Cappa, avanti il brecco sul 21, cappa. Da questa parte Giuseppe in compagnia di Vela 1, avanti il brecco. Basso, vai. C'era Giuseppe, era uno. Ti ascolto, sono in macchina al Ponte Nuovo e ti ascolto. Chi ne ho? di plastica? Io sono qui mezzo ai palazzi, non sento più nessuno. Allora sì, Giuseppe, Tittina, sono su Ponte Nuovo io. Cazzo, io sono qui dentro Safari 2, mi è portato nei palazzi. Allora è logico, se sei in mezzo ai palazzi non lo ascolti, no, perché sta uscendo basso, eh. Sono qua dopo il Ponte Nuovo adesso, al semaforo, va. Positivo, io sono riuscito a tirarlo fuori poco fa, passo passo, e a dirti la verità non avevo neanche riconosciuto che fosse lui. Gara, gara, adesso anch'io lo perderò sicuramente perché sto entrando in mezzo ai palazzi. Positivo, positivo, e Pierpa, riprenditela, io vado a suonare il campanello così faccio scendere moglie e bimba. Posso rispondere se non lo sento? Già, io lo sento, però. ciao, siamo a Nicola. Luca, ben ritratto. Dai, di nuovo a voi. Questo è Santiago Nova. Mario Bella, non c'è uno che ha il spazio aria, il quattro faccio il tipo fatti per il baracchino e tutto è a posto. Ciao Massimiliano, ciao a tutti, mi stavo ascoltando poco fa. Ciao, ciao Lu, buonasera. No, devo ti ascoltare, vabbè, io ti ascolto bene, se sta col piede ti ascolto lo stesso, quindi figurati. Sicuramente sì, invece sicuramente avevo questa cosa da togliere. queste scarpecce di quei nylon che mettono, diciamo, là. Adesso è diventata lucida lucida, ho sistemato anche quella tra 2001, perfetta, il capo li faccio dopo, deve essere tutto roger. Un attimino mi hanno chiamato e salgo la pupa, riprendete. Questa allora che mi ha avuto la via lucida, boh, ora c'è una pellicola da tua, eh. Ciao, Pierpa, la pellicola c'era, perché adesso è lucida lucida, normale, color argento, ma fa cura, sì, argento. Prego. Avanti, Giuseppe. Cappa, grazie, doppio room. Riprendo dalla BM con il QRA completo a bordo. Direzione Porto e Torres, giusto per far fare un giro alla bimba. Se vi volete unire siete benvenuti. Ma ci sono? Cappa, a fianco a Veronica. La mamma a fianco a Veronica, Gerdò. No, nel cofano, non ci sto. Cappa, cappa. Non ci sono. Aria è calda, eh. Ma io mi sa che mi mangio quel tiramisù. No, lo fai da bravo, lascia fare il tiramisù. Dani, mi va, non ti addormentare. No, no, io sono sveglio, non sono addormentato. Io sono sveglio. Da qua io ti vedo che c'hai un occhio aperto e l'altro è chiuso. E tu tutti e due chiusi, guardando il tiramisù. No, non le tocco, decido, non le tocco. Forse è meglio. Quando ci resisti. Qua mi vogliono proibire di mangiarmi mezzo chilo di tiramisù, Giuseppe. Mezzo chilo di tiramisù, guarda, è una botta di fritta. Ti vogliamo bene, per quello te lo diciamo. Tutta via di tabuta di affutidini. Su che andiamo, Giuseppe. Su che andiamo, Pierpa, fai, prendi il metro, misura e dopo un colpo netto per dividerlo questi tiramisù. Mezzo chilo adesso e mezzo chilo al rientro stasera. Se non fa una cosa, provalo stasera, la portalo stasera che ti aiuto io, va. Offre io. Vai, so che buffumento, io non li do. Io sono bravo. Doppio rumo. Fare la magia poi mi abracadabra e sparisce tutto. Braga, braga. Ma sta parlando poi uno che lo chiamano cucchiaio veloce. Ah no, no, io sono... Oggi abbiamo fatto un bel pranzetto. Ma non costose cose, un bel ringhito, saporito. Con Brecco. Avanti Brecco. Ah, adesso mi ascolti. Buonasera, adesso già mi ascolti però. Capo che ti ascolto adesso. Santiago 4. Capita, Santiago 4. Allora dobbiamo andare da Rabrascia a Rubragiri. Qua arriva qua Santiago 4. Positivo, dai, positivo. Invece da te già ha cambiato qualcosa. Aspetta, prova a vedere. Prima per segnare non me ne ricordo, comunque mi ascolti meglio adesso. Da 7 a 9 e 15. Vabbè, questa è l'antenna, la Matova Turbo, prima era l'antennina di bicicletta. No, ma già andava, anche prima ti ascoltavo, sentiamo un senso. No, già va bene, anche la radio comunque ci ha migliorato e anche più forte. È l'antenna di casa, è questa qua. E niente, dai, riprendetela che sto facendo, riordinando un po' di casino dentro qua. Appaga, appaga. Ebbene, baracchini non le stai toccando, cambio. No, non ne ho, non c'ho più niente. C'ho il 48 e questo piccolino attaccato qua e boh, e non c'ho altro. Tutto sparito. Tutto sparito, non c'è più niente. Ma... Cioè, va bene. Ma il negozio con quello lo disturbi o no? Penso di sì, però no. Si è chiuso, però no, mi interessa più di tanto, dai, non mi interessa più di tanto. Oh, hai cambiato idea. Io vedi, non ci sono quasi mai, no, mentre tu. Oh, e non mi muovi di nuda, che tutta la settimana non ci ho modulato qua io. Beh, io mettermi da vicino a casa. Ehi, ehi, e poi ci ho già pronto, guarda, ci ho già pronto l'8001 nuovamente, l'altro. E ne ho due, e cosa? Me attacco tutti e due in camion, ho detto, uno a un fianco, uno all'altro. Uno te lo metti in casa. È positivo, positivo. E magari ti dicono lì. No, poco fa era un'antenna mia, un'antenna attaccata a pezzi della mia e l'ha messo lì per terra, buoni. Che ne è? No, non c'è, no, si muove appena il coso di stazionaria, nulla di stazionaria c'ha. Pennai non te lo so dire, si assomiglia a una frusta nera, però c'ha una manopola sotto che regola le stazionaria. Ah, boh, no, non la conosco. Avanti, Pierpa. Pierpa, vediamo dove è arrivato Giuseppe, ci ascolti. Sì, Pierpa, ti ascolto alla grande, ti ascolto alla grande. Sono arrivato qui al coso dove il primo ferro vecchio, il deposito del ferro vecchio che c'è. Ah, l'hai presa dalla Butti Butti? Eh sì, la Butti Butti, per vedere in che stato pietoso è questa trava. E che trova di che fa il cane, vuol dire che sia, per carità? 9.5 qua, Giuseppe, sì, ancora. 9.5, calcola che sono con questo baracchinetto da niente. E mi sta dando tante soddisfazioni. E forse si comporta così bene perché lo chiamo il mio primo amore. Calpagato. Piccolino, non sai cosa che non mi piace quell'apparato? L'attacco che c'è. Basta cambiare l'attacco dall'interno, metterli di quelli a 4 e piantare un bel DMI e vedi come esce. Piatto Gesù. Attenzione Gianni doppio rullo, se era per me ero distratto. Ho detto che l'unico crucio che c'ha con l'apparecchio è l'attacco del microfono. Basta cambiarlo, metterlo a 4 e piazzare un bel DM1000 e vedrai come va. Lo sai che ci stavo pensando Gianni? Ci stavo proprio pensando. Soltanto che questo cavolo, farlo toccare per cambiargli quell'attacco lì, cavolo, io ho paura. Cosa paura? Rimetti gli attacchi dei fili, come era l'an 48, la stessa cosa. Lo sa fare chiunque quell'affare di me, chiunque tecnico te lo sa fare. E allora lo prendo questo attacco, dove lo prendo? Alla GPC, ce l'hanno, sì. Ma penso di sì, è vero per me. Che cosa? Attacco microfonico a 4 per sostituirlo dall'apparecchio che c'ha. Ma la torello? Ce l'ha. Basta se il buco più o meno è uguale. Se coincide il buco è un gioco. Anche perché se riesco a farla questa modifica e mi metto in macchina anche il DM1000 che ho a casa, io ho l'impressione che sta molto meglio. Infatti, ti puoi piazzare di M1000 lì e c'è una bomba perché ha già provato tanto uno con DM1000. deve essere bello perché, ti ripeto, questo è piccolino ed è comodo perché dove l'ho messo non mi porta via il sacco. In più se riesco a guadagnare ancora di più con le DM1000 io sono tombolo. Ma Giuseppe, ma dove sei? Allora, adesso sono qui di fronte alla fattoria già, perché? Che è successo? No, sempre da 9.95 quasi. Guarda, sono qui, questo è il secondo che vende la frutta, lì, di fronte alla fattoria. Sì, ho capito. Poi, anche se è un faldino. Una volta sono andato a comprare la frutta, ho detto che meno erano buoni, gli facevano pietà. Ah sì, qual è quello di destra o quello di sinistra andando? Andando a sinistra, quello dove c'è lo spiazzo per parcheggiare. E come mai ti ha detto che era lo zio? E poi faceva lo schifo. Perfetto, lo sai come ci sono i commercianti. Cavolo, vuoi anche a discapito suo però mio, Gianni? Perché lì se ti ha trattato male c'entri una volta, poi non c'entri più. Infatti così ho fatto. L'anguria dice che era buona. Per carità di Dio. Non ne avevo mangiato, guarda, l'anno scorso ho mangiato sempre angurie buone. L'unica volta l'ho mangiata è schifosetti. Comunque, buon pro di Bozia, è una futidomba di ieri. E poi, se vai a frutta e verdura, più o meno la paghi la stessa cosa. Quindi, sono proprietari loro, con la scusa che sono proprietari ne approfittano. Avanti di nuovo, Giuseppe, dove sei? Allora ti sei calato e sei a mezzo sette. Adesso sono ho proprio questo pettine di fronte. Adesso giro a sinistra e so che andiamo a Porto Torres. Torra nova. Comunque quel pezzo ce l'abbiamo, io e lei ce l'abbiamo qua. Cosa per fare? Mi ascolta, Giuseppe. Tassa di positivo che ti ascolto, Pier Paolo. Appurato che quel pezzo ce l'abbiamo. Quel pezzo per il centro. Capo. E allora si può fare una cosa, se non lo usi, al posto di andare a pagarlo a Torino, lo prendo da te e vediamo un po' se si può fare, Pier Paolo. Apparato, se che puoi portarlo a vedere se si può fare. Certo che te lo passo, dopo come stiamo salendo, te lo passo sì, Pierpa. Tanto tu io riprendo la casa, dalla macchina, in macchina non mi serve. Traduci però, che perché l'ho perso adesso un attimo, Gianni, traduci. Ha detto che praticamente tanto in macchina non riceve, che dopo riprende da casa e quindi te lo può dare anche. E capo. Capo di positivo e capo di veloce. Che puoi fare? Riesci a tirarmi fuori? Sono qui in mezzo agli alberi. Adesso sì che ti sento. Adesso, Pierpa, tanto mia moglie sta facendo finta di dormire in macchina, però ha le orecchie dritte come un coso, no? Come una lettre. Adesso cerco di comprarla, mamma e figlia, a Porto Torres con un mega gelatino, no? E vedo un pochino se mi fa un regalo per fine settimana. Adesso ti ho perso, lo so se ti arrivo io lì ancora, ma adesso ti ho perso. Certo che mi arrivi tu, Pier Paolo, mi arrivi sempre. Sono, secondo me, questi alberi mastodontici che ci sono qua vicino a Toluca, che in pratica stanno coprendo quasi tutta la strada. Allora, avrebbe bisogno di qualche volta in più, eh? Cazzo. Ma anche quello piano piano già facciamo, Pier Paolo. Però io sono sicuro che se riesco a fargli sposare il DM1000 che ho a casa, io dico che la radio è più prepotente. Allora, se avresti avuto, non neanche qualche volta più, ma un po' di radio, e il DM1000 te lo può risolvere davvero. Se avresti avuto un po' di radio, mi riuscivo a capirti. Vediamo un pochino per fare se si può fare quella storia lì, ti ripeto, come ho detto anche al doppio room, io ho fatto primiera, se te bevi una scopa. Lo vediamo se si può fare. Certo, Pierpa, certo. Ti stavo dicendo poco fa, quando mi hai perso, che adesso, anche se mia moglie sta facendo finta di dormire, no, però ha le orecchie dritte come una lepre, cerco di arruffianarmela, mamma e figlia, a Porto Torres con un gelatino, no? Perché tu vedo se riesco a farmi un regalino per fine settimana. Ah, così è. Cappa, le orecchie con il finestrino aperto, essendo orecchie al vento. Giorgio! Avanti! Buonasera a tutta la combriccola. Qua ti ascolto benissimo, se vuoi un 750 sotto. Cassa di positivo. Dai che poi per Paolo ti ascolto. E qua ti arrivando benissimo. A me Massimo, è sceso a 7, adesso è 9, 9, 5, 7. Beh già, io sono molto favorevole per la zona dove è. Anch'io sono favorevole per la zona lì. 9, 9, 5 è spostato una volta solo sul 7 e poi ha ripreso. La gara. Tu sei più vicino Massimiliano, non è che sei favorevole, sei più vicino, quindi normale. Ma come zona io ce l'ho aiuta libera quella lì. Infatti io sono più vicino, più basso, tu sei più in alto e più diciamo che ce l'hai proprio di fronte, no? Ma tu essendo più vicino normalmente la zona è più forte. Io per la zona di Porto Torres sono coperto, però purtroppo se c'è qualcuno che ha qualche watt in più lo ricevo, altrimenti no. Ti ricordo che quel martinetto non era manco 3 watt. No, Pierpa, tu c'hai un punto buono a Porto Torres. Io c'ho un punto buono, allora se tu glielo chiedi, lui senz'altro mi ascolta, ma se non c'è qualche watt dall'altra parte che pompa un pochino, cioè che c'ha almeno una decina di watt, 15 watt, non lo sento. Vela, se vai copiando Giuseppe che ti fa chiamata, qui arrivi forte e chiaro. Allora vedi che arrivo forte e chiaro, anche lui adesso l'ho sentito basso, però io ci arrivo a Porto Torres, come? Sì, ma addirittura arrivi anche dentro Porto Torres, non so se ti ricordi. Capo, io non so che mi sento, ma ti dico anche una cosa, anche a me sento anche a Macomer, però io non li sento, se non è che ci sia qualcuno che ci abbia un pochettino di roba. Positivo, positivo. Ti prendi già. Già, con la bolla al naso sei. Ma c'era Gigi, Gigi. Non ero di bolla, no, mi stavo girando nel letto perché sentivo questa cosa dura e ci avevo per il piede di socio. Ah, con la cosa dura nel letto, sì. E mi sono bevuto una fragotta, scusa. Ma te la bravi. Ma te la brava. Ah. Giuseppe, dove sei? Sono qui alla torretta. Lì è zona favorevole, quella lì. Per Sassari vai bene. Segnale con Elisa. Non possiamo passare adesso, se me lo dici, sì, sì, dai, dai. Però si sento bene sempre. Ma Giuseppe, che torno io? No, qui sei Santiago 2 addirittura adesso, sei sceso. Esce da 3 a 5. Sì, guarda, adesso già questo passaggio sei salito a 6 addirittura. E come movimento, comunque l'antenna va bene, dai, di luce. E non va benissimo. E magari. Ah, poi la PLC1000 l'antenna che va bene. Sì, già va bene. Va bene, quando è messa bene va bene. Non mi vedete bruciando, maletto. Magari. E poi quello lì è lo stilo di quelle le prime PDC che c'erano, sa di cant'anni è, sa minimo di 30 anni il suo stilo, però era nuovo, nuovo, nuovo, proprio mai usato, ancora col nylon me l'ha dato. Ma già io ce l'avevo con lo stilo dalla 2001. Quello lì è uno stilo che secondo me andavano meglio prima. Anche quelli di prima, anche la tenda dice che andavano meglio. Io so adesso come ti arrivo. Prova a fare un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santiago 7, radio 4. Sì. Adesso sono qui proprio all'ingresso del Porto Torres. Santo, da lì. Eh sì, dal porto. E quella è zona d'ombra, però un po' zona d'ombra. E ci sei tu qui davanti a noi, soltanto che mi manca l'antenna sulla macchina, è uguale, uguale, uguale. Macchina è? Operastra 1416 valvole. E ma fra poco la mia antenna si vedrà più. Manca solo l'antenna dentro la porta. Perché già hai detto tutto? Ah, no, perché l'ho messo talmente piccola che nemmeno si vede. Davvero? Tu non vedi quello dell'antenna grande? A base tu non mi dai tu? No, ci sono le antenne piccole che rendono e quelle che non rendono. Di solito l'antenna grande si rende sempre di più, c'è poco da fare, quello è già bisogno. Ma voglio provare anche questa che ho costruito. Allagava. Ciao Gianni, se va bene, se va bene, credo di procurarle un attimo, tanto la carica ce l'ho per poter lasciare. Vabbè, vabbè. Il prototipo siamo, dobbiamo solo fotocopiarla. Sì, certo. Bisogna solo copiarla e basta. Ti prendo la macchina, guarda la tua, c'è il tuo colore, c'è l'antenna, c'è il film, e cosa faremo per fare qui la nostra? Forse ti posso aiutare, Giuseppe, forse ce l'ho io questo so. Perché se si riesce a uscire bene, e allo stesso modo, è buono, Diciamo che l'antenna grande ti guardano tutti, è un po' seccata. Ti guardano tutti quanti, si girano a guardare. Gira un po' le scatole, ma io ce l'ho fatto il callo, oramai. Ma se questa qui, io la voglio provare. Penso che vada bene. Adesso la proviamo in lontananza, come va, se no, che ci vuole poco a rimetterla a cuccia. Tentarlo nuoce, bisogna fare sempre tutte le prove. Vaga. Poi questa qui è fatta da due antenne, quindi è ancora migliore. Ah, è turbo. Infatti. Mannaggia. Questo di un'antenna, ho preso dell'altra, è fatta l'antenna. Raga, che si fa stasera? Mi sto paranoiando. Prova a fare. Posso, a me mi hanno invitato a un live a Stintino. Se vogliamo andare, si canta, c'è karaoke tutta la notte, 24 ore, fino a domenica mattina fino alle 3. Ma si canta solo? Si canta, si balla, un live è così. Suona, no? Solo? Se tu sei fulpino non canti e balli solo, se vai per rimorchiare magari rimorchi anche, cosa vuol dire? Cosa devo rimorchiare? Non andate io, non faccio autotrenista. Sì, ti piace fare il galletto però. Hamburghese. Comunque hanno fatto due colpi importanti, 9 più 30 qua, Cappa. Tanti saluti. Pesi maschi. Ragazzi, ma Pierpaolo, Giuseppe, Pierpaolo? Sì, io sono qua, già. Vai. Cosa, non ho capito. Ma che io sono qua? Sì, io sto facendo una cosina qua. Allagava. Che c'era anche Luigi, mi pare che c'era Luigi. Se frate una tiramisù è per pa. E ha messo da mezzato. Luigi, l'ascolto, chi è arrivato poi? Giuseppe, oltre Giuseppe chi c'era ancora, già? C'era Luigi, ce l'ho io, tu, Pierpaolo. Tu non mi ricordo nessun altro. Non mi ricordo se è andato qualcun altro, poi un po' la bioco, un po' tutto, sono un posso in chiacchia. Ciao, andiamo, qui c'era anche Luca. Vabbè, proviamo a lanciare Giuseppe del più lontano. Giuseppe. Thank you. ci sentiamo. Cosa se lo vedi? C'è mia figlia che sta cantando su Facebook. Ha andato all'inaugurazione di una sala di registrazione. E vabbè, io come faccio a trovarla? Devo entrare su di te? Guarda, Manuela, Manuela. Ah, ok, no. Adesso accendiamo il tutto e poi vediamo quello che riusciamo a fare, là. Un saluto a tutti, ciao per Paolo, ciao Giuseppe, tutta la combricola che c'è in macchina. Luigi, grande agli ascoltori. Va bene, vedetevi tutti salutati dal Bondone, QRT. Ciao ciao. Cavolo zero. Ciao ciao Massimiliano, a dopo. Giuseppe, sì. Sì. Vabbè, molti sì. Hola. Buonasera Gianni Doppio Ru. Ui, far chi? Ui, Giannuzzo. Che si dice, che si dice? Noi eravamo qua tutti quanti qui a un lavoro. Chi per una cosa è tornato e sono allontanati. Dovrebbe essere Giuseppe fuori, ma non so se si è sceso a mangiarsi il gelato. E dove fuori? Perché dove era Portamo? Ma Porto Torres. Poi si è tornato la Budivudi, poi è sceso a Porto Torres. Ah, ci ha pagato, ma tu sotto le pizze sì. Ma una volta sentita di quale colonia è dello stereo, di quale cazzo grande, stereo 2000, non so se l'ha conosciuto. Quando si andava a padre, siccome i figli erano lunghi, no, me li avevo recuperati. E dopo lo di quelli, per fare queste cose, c'è sempre voi. Solo ma cuttiglia che era girato, che vedeva a ruglio, ma era a ruglio, invece era il negativo, vabbè, ci ho messo 10 minuti. Capo, se non ricordo, quello della Reardiger selezione. Sì, 2000, veramente, mi avevano tutti sul serio. Ma in fuzza pagavano la prima rata, poi non ne pagavano i più per i futiani. Sì, a me, che cazzo, in una pilota tutto il quartiere va via sul serio. E una bella vedo, perché pure mi pare 5-6 dischi insieme, e a un euro li faceva scendere da solo, li metteva da solo. No, ma poi io ne ho avuto anche un altro, c'era giradischi, non mi ricordo la marca, Stereo 8 e Stereo 7, in radio quasi, era vedo. Da poi è partito lo Stereo 8, poi mi ha stufato e se l'ha giovampato. Sempre a Portobello, Portari, oppure dove vendono roba dell'usato, in piazza, come te l'ho detto io. E ti vai, che cosa? Non sarà tanto, ma che cosa ti la vai? Ma se non funzionano i vuoi, se non funziona, lo trovo anche, ma non è vuole, me l'aveva detto. Perché gli ho portato il televisore che c'aveva in campagna, in campagna funzionava, arrivi i ghibi, l'attacca non funzionava più. Da una volta se dice che sta già cucito un caccione. E dove te l'ha provato? Dove sei in macchina qualche posto, lo già visto. E quel televisore l'avevo pagato allora 1.200.000 lire, era Philips mi, in campagna era un bijou. Siccome mi avevo piazzato una mensola, me ne ho procurato uno più piccolo, no? E mi volevo mettere quello che era di Tivisca, ma la partita si rubrica a Portobello, è buia, 30-40 euro, cosa mi ha fatto? Era buono, non mi come televisione, era enorme. E arrivi in attacca non funzionava più. Sono riuscito a fare questo rugaccione e ti verrà il matto. Mi figuri. Non desidero che era momento. Ma io quello acceso in campagna prima di portarlo, per farlo scaldare, perché l'accendo quando scendo che rimango a curicare lì, me lo guardo la notte, no? C'ho anche il decoro, ci va giù e giù. Cos'era? Un 2016, non l'aveva preso, l'ho acceso un po' in campagna prima di portarci, a farlo il calcino. E funzionava bene, deve essere qualche posto, lo sapevo. Ma a patata, comunque ce l'ho buttato, magari all'interno c'è la valvolina, tra l'altra parte c'è la valvolina, boh. Infatti. Una volta io avevo trovato, mi ricordo che cosa c'era la valvolina a parte, ho cambiato quella e funzionava. E ma la gente non si intende di rampare. Io già lo sapevo, ma mi ha fatto incazzare, cazzo, ma quella ganna mi ha giocato a pulire in macchina, azzurra. Ma quel cazzo, perché pensava, mi vedi, cioè, adesso mi ha passato lo sportello della punta, perché nel coppa non c'aveva altra roba. E allora si è già passato, ma va a parlare, dove ci ho buttato. No, non mi ha messo anche il telecomando, se magari si era pigliato qualche giorno, non ero un. Ma adesso il televisore ci buttano anche quelli che funzionano, non ti credere, perché se lo prendono nuovo con digitale terrestre incorporato e si vanno i sicuri digitale esterno di rampa, e tutto su tutta la rottura di palle, queste cose le mette in piedi, in cucina, è nata la rugoso della cucina componibile, sul marmo della cucina si occupa spazio e cosa. Meglio avere un televisore con quello incorporato e via fatica. E infatti io mi ero avuto piacere una messa la cielo in camera da letto per appoggiarlo, perché c'è il decoder, poi vedi tu che pone le discrete, il DVD, un casino, poi ci ho attaccata con la piastra, con il braccio che gira, perché io lo giro là verso la veranda, dopo c'ho il tavolo che ceniamo lì in estate. E quando sono in cucina lo giro verso cucina, capito? Però è un casino, e me mano a mano che si imballa lì, se li aprono lo compro quelli di adesso, così elimino tutti i sovarrasoni. Man mano che partono, io guarda, c'è un Sony che è la fine del mondo, sia come colori che come audio e stereo, ti fa vedere i canali, ti fa sentire proprio bene quando c'è la musica stereo, la senti di stereofonia, sembra effetto cinema, cosa, però c'è già un po' di anni e non vuole morire. Quello del salone io c'ho, che c'ho tutte quelle colonie piccole, grandi, case le colonie, quello fa il petto cinema, quello è grande stesso, è un Philips lo stesso, ma è enorme, più grande di chi si sta di lampada, però andate, ma io le camere no che faccio un televisore, e viene uno, non è possibile, con le cassette stereotono, che c'è tutto completo, sempre Philips, e non volevo, ha detto, non lo so, che pulsanti da porto bello no, è un peccato. Io c'ho una telecamera, una macchina fotografica nuova, non uso più, perché io c'ho quelle digitali, adesso per lì non uso più, però funzionano bene. Io quella roba lì ce l'ho portata l'altra volta, che c'è un grandaggio. Santa Maria, dici macchine fotografiche, gli sa, fa la videocamera, gli si cura maneggia. Adesso è tutti comparati. Una macchina fotografica un po' antica ce l'avevo portata, passata dei lì e se la narra il padre. No, le mie non sono antiche, ma sono professionali, capito? Se per due soldi non la do, sinceramente. C'ho teleobiettivo, grand'angolo, sono anche professionali che usano le fotografie per i matrimoni, è la mamma mia, quella che c'ho io. Ma se non la do, cosa te ne va? Non ne vai nulla, ce l'hai lì, così, però... Signori Dratti, cosa ne fa? Io non ho più trattato, era butra butra da un calascio all'altro, da un calascio all'armadio, ha tratto la cattola, sempre in mezzo a piedi me li trovavo, allora si era più buttato in balissimo. Tanto oramai, vedi, il telefonino, tutto quanto cosa, Antonio. Ti sarà bagnando il becco. Ti sicura, Ehi, adesso me lo bagno io, vado a farmi il caffè, 5 minuti di bianco. Già. Ah, me lo so preso dopo pranzo, adesso basta. Hola. Hola. Ti sei rimosso già? Io, e basta, basta. Dove sei Giuseppe? Sono arrivato a delle cose. Appagato, giratino, contatto con la me. No, prima che facciamo un volevo, ma poi ho fatto un volevo, perché come sei andato via e il corno è chiuso. Poi ci saranno tutti chiusi, non venisce una pizza, oggi la festa del lavoro, è difficile trovare aperto. E Marco che sta cantando, non so se lo senti, aspetta. Si sentiva Marco cantando. Dimmi pure già. E ti ho fatto un interrogativo, ho detto Marco si sentiva cantando. Ah no, no, non ho sentito perché è Veronica che sta cantando dietro. Ah, avanti che mi ha salutato con la buonasera. poi si dite anche a te. KK. La radio un po' bassina c'hai, come al solito. Sempre bassa bassa. Sempre uguale, non ha cambiato. Sempre bassa. Già, se qua Rem ti ascolto Bondi. E tu non ti metti quest'antennone. Ciao. Avanti. Ho detto, qua ho aumentato. Ciao, buon Dio. Ciao, Luca. Qua ho aumentato. Ogni volta l'ho aumentato. Ciao, buon Dio. Ciao, buon Dio. Ma guarda così, come va? Vai. Aspetta, ascolto meglio. Va, sei Santiago, sei Patricchi, di 8, radio 3. Però comprensibile, non c'è problema. Che anche a Cabassoli ci sto. Ah, è tutto e poi sta rompendo le balle. Muoviti, muoviti, muoviti, mamma mia, è una cosa che io non so, che rompi le balle dalla parte, noi lavoriamo, no? Facci lavorare, tranquilli, ma stai lì, muoviti, muoviti, muoviti, fatti, brava, via, avviati. Ma giovane questa di qua? Ma cosa mi so quanti anni fa? Ma sarà un gumma? Ma dove è il problema? Mi dici, ma dici, bomba, l'avanzi, controlliti. Ci può, mi vuole trattare di sigarette lì. Bomba, bomba è. Aveva detto, la fabbrica ci va di impresa, venga lì a fare il lavoro che stiamo facendo noi. E dai, che all'inizio era tutto tranquillo, la sua cosa si sta allargando, mi sa. Stanno pretendendo troppo, perché l'orario di lavoro è dalle 8 all'1 e mezza, ma sono tutti bloccare, e sempre di arrivare il furgone. Si chiama, c'è ma non devo dire la mano in dubbio, va già mi sono compresso, poi stavo leggendo le cacciate, il tempo di arrivare il furgone, eh? Noi a casa, cioè noi una volta arriviamo là che sono 2:15, il tempo di fare come si chiama, i maestri, no, il di fare una cosa con quello che fa lui, no, come si chiama, vabbè, già l'hai compreso. Un biglietto con su scritto, vabbè, tutti i nomi nostri, chi era presente o chi non era presente, quello che abbiamo fatto. E poi dobbiamo andare in fiera lì. La sala di 1:10, l'altra volta 2:30, l'altra volta 3:15. No, noi dobbiamo andare in fiera lì perché via prima non ci manda, prima delle due non ci manda via. Hai capito? Ecco cosa è il problema. Si chiama giornaliera. Già. No, no, che giornaliera, no, no. Ehi, avanti Giuseppe. Cappa, prova a fare chiamata a Pierpaolo se sei ancora, se ancora qua in ruota. Pierpaolo si è allontanato, giusto al televisore, che la mamma dice che non lo vedeva per... Oh, Pierpa, se vuoi io sto salendo e te lo lascio se vuoi, poi vedi tu con calma. Cappa, portalo prima che lo vediamo se si è fatto in se è fatto in prima bisogna vedere. Non c'è problema. Sugli altai io. Ma è la televisione, cosa gli è successo? Ah, la televisione vuole preso le cose, l'hai buttato. Buttato? Perché? Cogliano sente. Lo vuoi uno? Non lo so. Mamma, Se lo vuoi te lo prendi. Che ce l'hai in più? Ne ho uno in più, però lo devi usare col telecomando universale. No, no, lascia stare, già, mi pare che ne ha, che adesso appena che arriva Antonio, mi pare che ne ha uno. Non ho messo dei problemi, mi fa. È fermo già da un po' dentro il mobile. No, cioè dovrebbe adesso nei capelli che arriva il torre, la tirava a cercarlo, dovrebbe essere più il magazzino, dovrebbe essere uno. Cappa. Il mio sta bloccando le immagini, blocca la voce, va a ratte. E per colpa del decoder già? Non lo so perché dall'altro televisore si vede bene e ci abbiamo un'antenna centralizzata, penso proprio che sia il decoder, o il televisore o il decoder, due sono le cose. Mi pare che tutta una mezza fregatura a me questa dei decoder, anche a casa, cavolo, prima cambiavo il canale in un attimo cambiava, adesso è aspetta un po'. Ma quello tanto poco. Se viene a casa col televisore LCD, ultima generazione, eccetera, eccetera, però col decoder esterno, sempre degli ultimi che avevano il decoder esterno, si vede malissimo, ti stai facendo l'immagine, scrive assenza di segnale, un sacco di cazzate. Ma sono a quando? Sarà 3 giorni per là. 3 giorni? Cappa. Pierpa, io sono qui sotto, se ti affacci un secondo, così te lo lascio e poi vedi tu con calma. Aspetta, Io, un attimo solo. Io, buon Giuseppe. Eia, eccomi qua. Avevi fitti scienze. Ciao, Veronica. Papà. Ciao, bella. In Girena ti ha portato papà. Sì, adesso stacco Gianni, così glielo faccio raffreddare un pochino, poi riprendo da casa. E va bene, ciao a tutti i componenti, ciao, ci sentiamo. Ciao a tutti, dai. Ciao Gianno. Avanti lui, io non me ne sto andando. No, poi sono stato chiudendo. Poi facciamo il petitivo al dito al piede. No. Sto salutando a Giuseppe, che se ne stava andando. Adesso sono stato chiudendo. Aspetta un attimo. Allora c'è una pulizia al computer. Vabbè, un po', vabbè. Vabbè, lo stai navigando su Facebook. Sì, ce l'ho anche poco fa. Sì, sto navigando, ma poi sempre la stessa cosa, non mi viene voglia manco di entrare a fare la battuta, non mi sta più imporrando. Preferisco Badu. Scappa. No, Badu, non so come ti entra. No, mi interessa. Ma ti guardi se sicuramente come Facebook, è meglio. E poi ci sono delle persone che cercano amicizia, cercano amore, cercano qua, cercano là. Tu le contatti e loro se ti rispondono cominci a parlare, a chattare, capito? Ma io ti posso dire su internet, potrò fare mondette, boh. Non è detto. Sono anche persone in gamba, io. Per dire, ho amicizie che ce le ho quasi 10 anni. Sì, vabbè, su un mille ne potrò fare 3, 4, 5, 10. Tu, è come nella vita normale. C'è mondezza e ci sono persone in gamba. Anche nella vita normale è così, eh. È la stessa cosa. Diciamo che internet è... una cosa, è una foresta, è una foresta dove tu ti devi distrigare a trovare le persone a pelle, almeno le persone in gamba. Io quando ci avevo lanciato per lì ho fatto pizzate, sono venute da Milano, da Cagliari, da tutte le parti. Sono in gamba, tant'è vero che siamo ancora amici, che quando io devo andare a Olbia mi danno la casa, c'ho le chiavi, c'è a livello del genere che si fidano, capito? Sì, sì, quello sì. E vabbè, io ne conosco, ma ho conosco persone, io qua, io là, ma poi, vabbè, non come. Io ce ne sono fantastiche. Io prima o più che entravo mi divertivo a spacciarmi tra donna, mi cambiavo nominati i nick, entravo dicendo che ero un modello, mi dicevo un po' che ricattate, tanto per vedere come reagivano le persone. Io lo sì, già. Andare, il computer dipende, io sapevo che sta facendo a meno, penso a tu, perché ormai c'è, cioè, il computer ha tante cose già, ha tante cose diverse, di cui parliamo delle chat, a me il chat mi piace, e c'ha tanti siti, tante chat, ecco perché, se ne avessi avuto sempre la stessa cosa, allora me ne sarei fregato, ma in realtà io giro dappertutto, capito? No, io ero impegnato nella mia, se sarei online, e aprivo quella, la chiudevo, chattavo, facevo, ero sempre impegnato lì. Poi mia figlia è cresciuta, ha cominciato a usare anche il computer per cantare, per cosa. Lo sai, lui che ha aperto la serata, hanno aperto una sala di registrazione audio. una casa discografica. Lui ha fatto i lavori tu, lui a Valletta. La mia figlia ha fatto l'inaugurazione cantando. Dove? Dove avete lavorato voi? Centro di aggregazione sociale, buco per cerchiare. Dove? Lì a Valletta. Qui in quel, capito, in quella piazza? In quel, diciamo, dentro quel quarto bar comunale? In quella ex casa famiglia, per intenderci. Dove c'era Vittorio Carta, la buon'anima. E qui hanno aperto una sala di registrazione, lo sai. Allora. Scappa. E all'inaugurazione della serata c'era mia figlia che cantava. E su Facebook mi se lo guardi, c'è. Guarda, Manuela Mente. Troppo controllo già. Sai che mi stanno male il computer, poi sono giorni che vado a Dio. Cioè noi che siamo sempre nel computer, però sono giorni che non va proprio. Ce la fai a vederla. Di solito ho la pagina mia perché ce l'ho anche io come collegamento. Mi stavo chiedendo un po' di amicizie tipo nuove, con nomi stranieri, questa polacca, questa russa, ma belle donne mi lui. Allora. Sì, ma non glielo dà. Tu. Tutte tentazioni, so. Ma roba. Aspetta un attimo, già 2 secondi, aspetta che qua non computer sta un po' affinato, aspetta. Continua ad andare. Attenzione, falchetto. Mamma non ti andare. Mamma. E pignendi so cugantendi. Poi dalla voce. Che grazie mi combina? Cioè, mi ha fatto una ricavuzzata su Facebook, ma niente là. Poi la Sibilia mi sta un po' spallando, non ci prendo gusto. Preferisco andare su Badu che c'ho un paio di amiche che c'ha. Sì, vabbè, a volte entra mia cognata, capito, scambiamo 2 stronzate. Ah, sì, nella ciaccia, anche io ho molti amici, ho il sito del CISO, mettono i servizi che ci sono, le adesioni, abbiamo fatto un programma, no? Sul computer, su Facebook, abbiamo questo sito che è proprio del CISO, ne metto tutti i tipi di servizio che ci sono, dare la disponibilità, metti il tuo nome, ce l'hanno già tramite il computer, capito? Positivo, no, loro c'hanno Skype, ci stanno facendo una chiacchierata, si vedono anche, capito? Sì, non so quanti anni fa, io l'ho usato Skype, roba di 10 anni fa, le telefonavo, eccetera, eccetera, gratis, io lo so, sì, a voglia. Conosco bene quel programma, però mi andava in contrasto con altri programmi, allora l'ho dovuto togliere. Ma io ce l'avevo per un bel po' di tempo, c'avevo addirittura il microfono con le cuffie, me lo mettevo, parlavo tranquillamente, poi cercavo anche le persone, eccetera, eccetera, Italia, Francia, dove volevi parlare, mi divertivo a parlare con i francesi. Ma già, l'informazione, secondo te un M300 quanto si può pagare? Secondo mano? 30 euro, non di più. No, anche 50. Una mano, lui? Ma cosa 50? Non rientrare vivo, si può comprare il purtroppo. Allora, io M300 già, e la rua mio fratello. Poi mio fratello era modificato. Allora, una bomba sul microfono. Su tanti che mi hanno fatto, pochi sono andati bene, molto pochi. quel microfono era da volare, ma di Pietro ma ci dice, non lo vuole dare, non lo voglio pagare, non me li vuole dare. Ma tu solo ti compri tutto quello, c'è un bravo apparecchio, un amplificatore, un diporo, un alimentatore, cosa ci aspetta? Un po' di roba, ci vuole da 300 euro. Prendimi e non me li vuole, stava a fare, mi l'appudo. Allora Lu, questo M300 dal 1990, i primi ne sono usciti. I M300 sono buoni come microfoni. Se il microfono limpia che sono buoni. Cioè buono Dio. Funzionano, ecco. Bisogna vedere se sono a posto. Allora, i microfoni hanno un problema al PTT. Allo driver dell'eco, fuori, non ha problemi. Un po' che la batti, poi che l'acqua si consuma dentro, è un casino. E la carbonella che c'è all'interno è fatta, ma ci puoi mettere benissimo la mina delle matite, ed è la stessa cosa. Comunque, quanto si può pagare così di seconda mano una cosa del genere? Anche 50 si può pagare secondo me. L'interessante è che vada bene, che funzioni bene, che la carbonella dello slider dell'eco funzioni. Già, lunedì quando mi portano il tutto, me lo porto qua a casa e provo tutto quanto, capito? E devo volare anche col corso, l'amplificatore piccolino. Non lo so, ma mi ha detto di portare un apparecchio che c'è la banda laterale, non so come è indicato, ma giusto per curiosità, cioè perlomeno, lui me lo sta dando perché se riesco a fargli avere qualche soldino, capito? Perché tanto lui ha detto che in casa non c'è più niente, c'è una lavata da turbo, se l'ha venduta, adesso non so cosa tutto gli è rimasto, e tutto portalo qua, io lo faccio vedere degli amici. Te lo assicuro che se mi interessa non se lo prendo. E apparecchio? Non lo so, non ho saputo dire la marca, figurati. Mi ha detto che minimo è 20 anni che non voleva più. Ha messo tutto dentro una scatola, tutto in cellofanato bene, tutto chiuso, che non prende umidità e cose del genere. Adesso ha detto che lunedì se lo metto in macchina me lo porto. Ma cos'è base? Non lo so, mi sa di sì però, è una cosa, una base, sì, l'apparato diciamo sia base. E basta vedere. Non vorrei sbagliare, però mi ha detto che va intorno, dalla casa intorno ai 50-70 watt, una cosa del genere. Però non mi ha saputo dire, non si ricorda la marca. Se non sono state modificate, radio che vanno così, poche ce n'è. No, negativo, lui ha detto non ha modificato niente, non so, mi sembra l'ha comprato in Inghilterra questa cosa. Ah, boh, là non lo conosco proprio. No, lui mi ha detto che una volta che vai nelle bande laterali addirittura va 3-4 volte ancora su, boh, altre 3-4 volte giù, boh. Ha detto c'ha un casino di canali, boh, boh. Non si ricordava la marca. Io inglesi sinceramente americani ne conosco, ma inglesi no, non proprio non ne ho mai avuto. Tu cuca. Luca il computer. Fare la pulimia un uccidio di una paraniera, ma da giorno ce la sono stomaco, cosa che mai. E mi sono messo un amarettino là. Lo sai che io lo stesso, mi ho mangiato un pezzettino di pecora arrosto e ce l'ho spremo sullo stomaco e ho bevuto un goccettino di acqua vita per digerire. Ma cosa che mai a me la mia non lo digerisco, ma si smetta più, mi fai un po' di comare, però ce l'ho pure sullo stomaco. Mi sono già bevuto una maletta prima, adesso nel mio rilascio, la mia usiamo con l'angioletto stavolta. La nera è pesante e forte, meglio del porcetto. Sì, è vero, è più pesante del porcetto l'agnello. differenza da così a così, qual è meglio? Questa qua o questa qua di microfonia? Non ha cambiato niente, né per uno né per l'altro. Vabbè, sono distante più di un metro adesso. E qui sono 50 centimetri la similia. Beh, così è aumentata appena appena, più grossetta, ma comunque non cambia più di tanto. Andavera. Va bene. Vai Gianni, ripeto. Comunque, da una parte ho visto su Facebook, però non capisco se ci sei tu o c'è tua moglie. Mia moglie c'è. Prima ero io, adesso io sono qua, c'è lì. Allora sicuramente sarà anche un farfille, sarà piantando, tagliando. Ma che malattia di tutti adesso? Attimo, Ilario, lui è un capo di media, non glielo conosci più io. Ma perché capito sei diventato? Da un bel po'. C'è un campo di peli, bisogna sempre imparare i riccioli. E mi ha un bello lì, Sono uno su mai danni, non si ricorderà di me. Ma conosco tanti anni, conosco a Ivan, fratello. Lo trovo è morto quello piccolo, è morto d'incidente. Aveva avuto dei voti. Allora, se tu conosci il fratello, secondo foto che mette, tu dici cazzo di lo passeggio. Non ci vuoi dire, lo conosco da tanti anni. Sono felice la massimilia. Sono che tu hai detto anni di me. È nato da loro molti. Ha giocato un ruolo, ha giocato a pallone, a un campetto e onghi. Con un Peppone, i miei fratelli. Ma ci conosciamo. Adesso un po' di anni non lo vedo. Ma tu hai detto, poi non volto, se mi ricordo di te, no, è letto, no, è buono. Cavagliava. Dimmi il nome di questo Peppone. Giuseppe Caso. Che non lo conosco anche io. Chi è grosso, mi è sposato Lucio Abbandi. È grosso, alto. Come sta bene, Lidia? Gioca, ha fatto lui il calcetto. No. No. Abitava a due passi da me. Una via mia, la scala che si vede l'altra più avanti. No, stai sbagliando Massimiliano. Io mi ricordo che stava quelle donne vicino alla te, come era il gioco. Io c'avevo anche una ragazza abitava lì, brava, qua a metà di un uomo. Quasi alla fine di via Carso, sulla destra, con le casettine che ci sono. In via Sorso, la nuova Carso, via Sorso. Un po' prima nella discesa e lì abitava. Come non mi ricordo come si chiama. Ah, Mura. No, non è lui. No, Peppone no. Peppone, io so che abita al monte questo qua. Io abitavo, ci mancano un po' adesso, spera un attimino. Ecco qua, fa casino là, aspetta. Ecco qua. Giuseppe abitava la via mia, Massimiliano. Non so se è presente dove abito io. Ma dove c'è il giardino abiti? No, sono la casa di Canada. Sì, ma vicino al giardino ci sono i giardini anche lì, insomma. Ma dietro? Sì. C'è una piazza, Non sono sbagliato. Lui è con i capelli castani chiari. Ma ci vanno? Sì, ma non ha, capo, ma io adesso lo fa vedere lo manco qui nel giardino. Cazzo, allora me la metti, i capelli castani. E c'è i capelli castani chiari. Almeno 1,80 m, sino di più puro. Allora, sarà... 1,80 già c'è, grosso, come grosso. E allora, secondo me stiamo parlando della stessa persona. Guarda, ultimamente io l'ho visto, se stiamo parlando della stessa persona, c'aveva una Matrix. Matrix, lui si chiama questa Matrix. Non è lui. Sono verso lui è un Peppone, no? Allora, prima c'era una Laura un verde, che era a Roma. C'era la moglie. Adesso ha una Peugeot blu. E non è lui, Massimiliano Fiati. Allora, sono andato a dire a peccato, mi dicevo che sì. Ah, Casu, non Casu, Casu. Ah, Casu, Casu, no, no, non stiamo parlando di un'altra persona, questo è Canu. No, no, no, no, no. No, conosci pure anche che lo conosca, però non ce l'ho presente, va. Vabbè. Ok. Gianni. Eia, eia. Cappa. No, io non lo conosco per niente, quindi non posso interferire. No, beh, io qualcuno, siccome lì abitava il mio zio, alle casette in Canada abitava mio zio, capito? Lui si è sposato di comunque abitare qua in punti, è per quello che io ci ho frequentato. Andavo a trovare mio zio e io stavo giù a giocare, hai capito? E anche io ho mio zio che abitano lì. Luca, grazie, vi conosci. Capito, Gianni? La famiglia Grassi, la conosci? La famiglia Grassi, no? Gianni, Fiziana, eccetera, eccetera, vabbè, comunque, se non abitavano, no? Se la, non abbiamo, non lo ricordo, però salendo da via Barghinotti, la via che ti... proprio la via, salendo da via Barghinotti, quella lì. Ah, buono. Grazie, ma quanti anni fanno stai parlando? Di un po' di anni. Adesso non lo so più se abitano lì ancora. Faceva il meccanico. Ma grazie in carrozzieri, no? Qualche carrozzieri? No, no, non meccanico proprio. Non lo so, non è che ha già. Avete una palla. Vabbè. Qui io mi ricordo che quando ero ragazzo accompagnava a nonna la mia zia lì, abitava lì. Ragazzo, 9 anni, 10 anni avevo. Capo, c'è andava pure il baracchino. Va, si sente. C'è un attimo, poi le preghi qua, vai. Prendiamo la ventola. No, la ventola del piombo, aspetta. Senti adesso, non senti più. No, non è attivo. E anche la chiude, la ventola. La ventola del chiude. E fa casino quando... Quando. Va bene. Ora, uno, due, tre, prova. Oh, già, a Giovannino l'originale gli è arrivata la scheda nuova che deve piazzare. Queste scale ecco stanno sparendo, queste con l'effetto elicottero. Che scheda è adesso? Dai, su YouTube la trovi, cerca, scrivi, ecco, Major, e te la dà. Io il Major l'ho avuto a parecchio. Ma l'unico portatile che avevo, 80 canali sopra e 80 sotto, di vecchia era, con le... E così al quarzo, le scritte al quarzo, ma bello era, grande, bello tutto il ferro. Adesso con queste, con Conte stanno uscendo queste schede Major. A me mi piace, rimane molto metallica come quello. Certo, però ho sentito il conto che c'ha Giovannino originale, proprio quello originale originale, con l'effetto elicottero, che esce dalla fabbrica così con la scheda, cazzo micidiale. Colt? Colt, no, sì, mi va, se lo senti. Guarda, se entra nel mio link c'è... dove sei entrato nella fotografia che mi ha mandato Giovannino e ti guardi il lineare che c'ha in terra. L'ha mandato anche a me. L'ha mandato anche a me, sì. Pare dei casci di compresso. Vito è quello che c'è in piedi messo dietro la silica, no, anche la sua. Cappagappa. Il segnale lineare. Sto cercando un discimatore per questo. Sì, me l'ha detto. Non si è operato anche le misure, se c'era la GPC, ma non c'era la GPC, non va neanche a far tuffo. Però mi pare sia 90 per 30 largo. Perché dice che poteva scaldarci le uova sopra, mentre stava guidando. Cazzo già, mi sembra che quello lì era quel, quei 1200 assieme. E i due 2400 watt aveva in tutto, erano accoppiati in parallelo. Massimiliano. E allora chi a me? Massù? Sì. Ehi, posso anche salire, non c'è problema. Natali, se sali, mi porti quella cosa e io porto il mio. Ma arrivavo tutti e due sotto, ma puniti a posto. Il mio funziona perché l'ho provato anche, siccome mi ho messo a posto l'antenna, no? Funziona a todos. Ecco, tu me lo dai e tu poi ti prendi il mio, lo metti a posto il mio, quando hai messo a posto il mio, io poi lunedì faccio quel lavoro e ci vediamo e te lo restituisco. E tu nel frattempo metti a posto quello. Natale, se non vedo come il mio. Natà. Ma le sigarette dove le comprate? Via Succis, perché? Alla macchinetta. Ah no, pensavo che fosse aperto Graziella. Oh, io questa macchinetta non mi piace. Ogni volta non mi accetta la scheda, un casino. Ma perché senza sigarette sì? Cappa. Se voi te le compro mia adesso, va, te le compro e te le porto, così almeno me la finisci. Cazzo di burro, io ando con la scheda in Chivie e via. Senza scheda non te ne dà quel passaggio di via Succis. Oh, vera. Sì. Non lascio l'altro, arrivate bene, so, ciao, vi lascio. Continuate il vostro QSO. Vabbè, buon Natale, non lo so che dirti, dai, niente. Questo qua non funziona, allora va a fare una compra e via. Natale, se sei vicino al tabacchino, fammi la cortesia. Allora, no, tanto stasera ci vediamo, non ci vediamo, non ci vediamo stasera sulla quadrata. Cazzo, la giudarata pure lì basta, la giudarata, Romeo. A me mi serve per lunedì, mi hai capito, Natali? Vabbè, non lo so. Te lo do stasera, te lo me la porto appresso e te lo do. Molto ci vuole. Lunedì te lo usi e poi me lo ridai. Sono io, se non c'ho il mio, se hanno investito qualche capo, io non lo gioco, io la taizzo, no. Cavagava, no. Cazzo, ma lo sai, già, questo cronometro di merda, cazzo, non segna niente. Cazzo, mi rompe le scatole ogni volta che c'è un ragazzo per cane, però il problema è che tutta la settimana non viene da me dove sto lavorando, capito? Avevo un po' dato una regolata all'antenna, ma... scendere a 1-1 e via. Non la tagliare, non abbassa le altre. Non la tagliare, Massimiliano. No, già provato, alzata, sollevata già, non si riesce a abbassare. Abbiamo dovuto tagliare lo stilo 3 cm, niente, l'abbiamo portata a 1-2 in tutti i canali, sia sopra che sotto che nei canali normali. 1-2 e 3 parti. Però siccome già lo sai, no? Quella cosa che ti ho fatto vedere ieri, quindi voglio abbassare un po'. Se metti quella, devi essere 1-1 almeno. Mio. Vabbè, dai, Natale, io non lo so, dai, al limite lo porto anche questo, così lo vedi, là. Niente. Noi ci sentiamo stasera, già ci aggiorniamo più tardi, là. Adesso è matta gente, mi scoccia stare qua, non lo vedo, là. Dai, continuate il vostro questo, ci sentiamo, dai. Buona serata, ciao ciao. Ciao ciao Massimiliano, ci sentiamo stasera, avanti Natale. Sigarette già. Ma che te ne vuoi di quelle che fumi tu? Eia. Camerlite. Anda bene Meda, un attimo che c'è, vai, riprendo su. Grazie. Avanti buon Giuseppe. E buonasera di nuovo, ascolti, dalla bicicletta, come ti sto arrivando con questo antennino? C'è in bicicletta. Cappa. Aspetta, mi dare tu modo di alzare perché sono con Gico Vitrico, aspetta che devo guardare bene. Vai. Poi, se sapevo che ricaricato già, mannaggia, non ti dovevi manco disturbare, figurati. Non c'è nessun problema, sei 9.25 qua, senza nessun problema. Cappa, dai, vuol dire che qui è tutto Roger, è tutto cappa. Quell'antenna va alla grande, Giuseppe, speriamo che anche la mia vada bene. Comunque, stasera abbiamo provato prima con una e poi con l'altra. Da 9.5 scendevano a 9 con quella piccola, ma c'è una differenza qualche viaggio lungo si può sempre tenere in considerazione, ma se qua su Sassari si può tenere quella piccolina è un vantaggio, cioè, astronomico. A te bisognerebbe darti il brevetto se su quell'antenna lì lo dovresti depositare. Comunque, vabbè, c'è il pezzo, la brugolina dove entrava l'antenna tua, diciamo quella vecchia, quella brugolina dove entrava lo stilo, quella lì gliel'ho cambiata perché quella là era vecchia, gli ho messo quella tua che è più nuova, gli ho aggiunto una brugola, una vecchia brugola di quell'altra antenna, insomma da due ne ho fatto una per farlo. Io piuttosto per non fare togli e metti quella là Gianni, anche per le stazionarie, come posso fare con questa? Come non ho capito cosa vuoi dire Giuseppe. Allora con l'antenna tu l'hai visto che oltre che svitare da ancora si può svitare anche da sopra, te l'ho fatto vedere, no? Te l'ho svitato. Quello non l'ho visto già. Beh, te lo faccio vedere, dai. Quell'antenna lì smolla anche da sopra, se tu vuoi ti buschi un tappo, è più comodo toglierla da sopra che toglierla da là, vabbè, quasi diciamo che uguale. Per le stazionarie praticamente, da una all'altra ti stai dicendo, perché tu di moto non ce n'è un altro, scusa, per attaccare. Sì, c'è Roma, manca il pezzo dove posso infilare l'antenna, già. Cazzarola, quello lì non ce l'ho più buttato. Ce l'ho buttato. Ma aspetta. Forse che ancora non ce l'ho buttato, lo sai. Dai, non fare lì adesso a metterti problemi, già. Se la troviamo la soluzione bene, se no ciccia, metto questa. Anche perché quella là, la comodità, lo sai che cos'è? Che città, la posso mettere anche nel bagagliaio, quando magari vado fuori al posto di lasciarla, perché questa qui nel bagagliaio non mi ci sta, mi hai capito? Quella piccolina la si può togliere anche la notte, no, la butto nel bagagliaio e via. E io Giuseppe, tanto già ci vediamo stasera, non so, al quadrato. Penso di sì, già. Magari mi salgo la cosa, adesso vediamo. La brugola però, la vicina brugola, ne ho una solo perché l'altra l'ho messa nell'antenna mia, e quella che mancava è quella che ti ha fatto più il palo, mancava, e l'ho messa una della mia. Non c'è problema, quelle se le vendono le posso prendere due vitine. Una forse ci arrivo a dartela, una ci arrivo, c'è una scatola di attrezzi. Bisogna che me ne ricordi a portartela. Però devo andare a furgiare nella bombetta perché ci ho buttato quel pezzo l'acqua. Perché Marco mi ha fatto una cazzata, mi c'è entrato il pezzettino dello stilo che ho tagliato. Me l'è entrato dentro ed era nell'altra antenna, quindi è entrato a forza, non ne vuole più uscire, e quindi ha ripreso e ha rifiuto tutto e buonanotte. Voglio fare che ti devo le sigarette. Oh Gianni, ma mi vorrei sbagliare, ma c'hai come un fischio sotto, a stazionare come sei? Di uso, ma questo è c'ho uno e un fischio. Ma vai, anda bene mera. È la batteria, Giuseppe. Vabbè, c'è un attimino da una stazione. Come on, come on, come on.